Hai visto che ce l'avevo? Mm-hmm. No, comunque, che siccome sono in piena produzione, lei è una cofondatrice del gruppo Fondazione Lens, che ha sede a Parma, e sono in piena attività perché la settimana prossima debuttano con una nuova creazione nell'ambito di, della rassegna Industrie 017. E quindi non è potuta venire qui, però era già stata con noi per presentarci in menzione uno spettacolo che si chiama Kinder Bambini, che io sono andata a vedere ed è stato bellissimo. Se ancora ci penso mi viene veramente, è stata una cosa commoventissima, una delicatezza, e sono diventati il mio gruppo teatrale di ricerca preferiti. Ah, addirittura. Sì, sì, proprio io sono super fan, perciò sono ancora un po' più emozionata. Quindi aiutami Stefano, rimettimi in carreggiata, che qua siamo in ritardo, dobbiamo chiamare, quindi io metto una traccia audio che mi hanno spedito tramite WeTransfer, questi potenti mezzi. Wow. E che dovrebbe essere senza la T finale. Ah, WeTransfer. Grazie. Un ottimo aiuto, grazie. Non c'è problema. Posso interromperti prima e dirti: senti questo piccolo pianoforte che suona qua di dietro? Lui è Marco Stabi, che è un artista di arte contemporanea, un pittore americano. Che ci ha spedito i brani sul coxo? No, li ho comprati io, perché sono un suo fan. Va bene, allora, anche tu. Allora, prova a invitarlo anche tu. Sta a Roma. Intanto c'è l'idolo mio, questa puntata qua, che è 172. Molto bene. Ah, siamo al 172. Sì, bene, era allora 171 la volta scorsa. Hai ragione, no? Infatti ti ho cacciato senza motivo. Scusa. Mi hai coxato, per cortesia. Thank you. queste note riprendiamo il filo del discorso insieme alla super mega galattica ospite della 172esima puntata di Cox Spaziale, Maria Federica Maestri. Ciao, buonasera. Ciao, grazie, benvenuta. Grazie. Ciao Maria. Grazie a te. Ciao. Per essere qui. E allora, questa traccia di cosa ci anticipa? Allora, anticipa una sequenza particolarmente, come sentite, emozionante del nostro lavoro, del prossimo nostro lavoro, che è Consegnaci bambini i tuoi occhi. È un pezzo musicale composto da Robin Rimbaud, detto Scanner, un musicista londinese che ha lavorato con noi nel 2008. In realtà poi la collaborazione è continuata anche nel 2015 con un altro lavoro ispirato a Verdi, ed è una sequenza abbastanza straordinaria perché è il momento in cui Cappuccetto Rosso, che nel testo di Lorca è appunto chiamata Caperucita Roja, incontra per la prima volta i santi in paradiso. Quindi insomma è l'inizio del suo viaggio, di questo viaggio straordinario, in un'atmosfera rarefatta, divertita, anche se poi in Lorca c'è sempre, no, un miscuglio di tragedia, sì, amarezza. Ecco, è il primo passo del suo viaggio, è l'inizio del suo viaggio. E quindi questo, diciamo, è l'incipit del lavoro che debutterà appunto per questa rassegna Industria 2017 la prossima settimana, il prossimo sabato nello specifico. Esatto. Adesso io, come ho provato a chiederti nel fuori onda, ti chiederei di fare un pochino un piccolo cappello introduttivo, per quanto piccolo rispetto alla vastità del vostro lavoro sia un po' difficile da richiedere, su appunto che cos'è Fondazione Lens e magari anche da dove viene, o comunque cosa state facendo a Parma. Certo, sì, in effetti quando ci penso gli anni sono tanti di lavoro, straordinari, tanto che sembrano meno, no? Quindi noi ci siamo fondati e formati nel 1985-86, quindi insomma abbiamo compiuto i 30 anni, siamo nella piena maturità. E li portate benissimo. Io sono pienamente fan, dopo aver visto che Tinder due settimane fa che ha aperto la rassegna, mi avete conquistato. Qui per scherzare, di solito si dice ho pianto tanto, mi è piaciuto, no? Com'è che si dice, Stefano? Mi è piaciuto molto, ho pianto tanto, che è una citazione da Marco di Fellini. In realtà effettivamente io mi sono trovata così da quando è cominciato, ma non è stato un pianto pesante, non lo so che cosa è stato, ma mi ha proprio trascinata oltre quella tela che faceva da separé, da velario tra il pubblico e quello che succedeva oltre nella scena, e mi sono proprio proiettata in questo stato emotivo dal quale poi mi sono riavuta nella sera, perché ci ha messo un pochino a rientrare in me, e per questo è per me estremamente raro trovare una situazione di empatia tale con la scena. Cioè, io sono anche un pochino viziata, se vogliamo, che ho, insomma, però non so, forse sono un po' fuori luogo a dirlo, però insomma, no, pianto tanto, mi è piaciuto. Sì, no, ma sono appunto, questo mi fa particolarmente piacere, perché quando una spettatrice ci incontra, anche se magari ci ha conosciuto per vie traverse, no, per l'informazione, la stampa, quando ci incontra e ci scopre dopo 30 anni è emozionante anche per noi. Cioè, essere scoperti come in una dimensione così, che è complessa perché è emozionale, ma anche evidentemente intellettuale, perché sennò appunto l'emozione finisce presto, no? Quindi c'è questo incontro che abbiamo avuto, è stato anche per noi forte, perché ripeto, 30 anni di lavoro non sono pochi, e rimanere comunque in una condizione di come dire, no, di crescita, di trasformazione, è forse la sfida più grande in un percorso, nella vita di un artista. E quindi questo non aver compiuto, ma essere ancora in compimento. E Kinder, che hai visto, è uno dei lavori dove tra l'altro Si origina proprio anche per noi una scoperta che era quello del mondo infantile e del mondo dei bambini che non abbiamo in questi anni mai attraversato, perché i mondi che ci sono stati, che fortunatamente abbiamo scoperto, sono mondi più legati alla sensibilità psichica, appunto a quella che si chiama, no, al mondo della differenza, per certi versi. Quindi questi bambini che nascevano un po' improvvisamente sono stati, insomma, anche per noi un'illuminazione estetica. E tu mi chiedevi appunto una sintesi, giustamente, come deve essere, di tanti anni di lavoro, e ti potrei dire che sono diverse anche le fasi, cioè in 30 anni ci sono dei cicli. Noi ci siamo nati come Lens Rifrazioni, in realtà la fondazione è semplicemente una trasformazione dopo tanti anni di un progetto che non si vuole chiudere con la nostra esperienza biografica, ma che vuole, spero, continuare, quindi l'idea di un progetto a lungo, con un tempo più lungo in avanti, anche oltre la nostra, appunto, la nostra, spero, la nostra lunga vita. E quindi Lens Rifrazioni nasceva battezzandoci attraverso il nome di una drammaturgo, e non solo di una doppia drammaturgia, perché Lens è la novella di Büchner, che è la novella breve, cioè in fondo il testo, il capolavoro del romanticismo, che raccontava nell'Ottocento di un'altra vita folle di un, appunto, drammaturgo che è vissuto alla fine del Settecento, che ci ha lasciato pochissime opere, perché poi, appunto, i suoi percorsi sono entrati in quel mondo delicato e terribile della follia, quindi poi si è perso ed morì pazzo a Mosca, appunto, abbandonato. Quindi noi siamo nati, ci siamo dati un nome che non era, che era un sigillo di purezza, di rigore, ma anche di grande passione. A volte le passioni sono talmente divoranti, no, da farti oltrepassare la soglia e la misura. E quindi ci siamo, un po' come dei neoromantici, ci siamo dati quel nome, e attraverso quel nome abbiamo scoperto tante altre drammaturgie che abbiamo attraversato, messo in scena, rielaborato in questi anni. Quindi dopo Büchner, appunto, siamo entrati nel mondo lenziano, mettendo in scena all'inizio proprio alcune delle sue opere più importanti, poi Majakovskij, e poi Calderon della Barca, Shakespeare, Goethe, cioè i grandi monumenti della drammaturgia occidentale, i grandi capolavori dentro i quali noi scoprivamo però le tensioni del nostro tempo. Sì, e se mi permetti, c'è una cosa che io adoro nella vostra prassi, per quel poco che ho visto dal vivo e per quello che, insomma, sono andata un po' ad informarmi, lo ammetto, e questa cosa la chiamerei della scrittura scenica, nel senso che queste interpretazioni di testi, che solitamente vengono restituiti al pubblico tradizionalmente per parole e quinte, insomma in maniera molto tradizionale, in realtà con voi vengono diluiti nello spazio, in modo che ciascun elemento del palco trasmetta un particolare significato, e si tratta quindi di una complessità che, dal mio punto di vista, è un valore aggiunto indispensabile a chiunque si appresti a fare performing art, come si chiamano adesso nel contemporaneo, no? Certo, no, infatti da una parte volevamo, anche perché eravamo poi appunto molto giovani, strappare al mondo accademico, al mondo della tradizione teatrale, appunto, i suoi tesori più preziosi, per cui Faust non deve essere proprietà solo della tradizione del teatro, ma deve essere, come dire, sottratto come bene comune, e quindi diventare patrimonio anche di un lavoro di ricerca, di indagine, che superasse i limiti della convenzione. Quindi il lavoro attraverso l'immagine, il lavoro attraverso una lettura, appunto una drammaturgia dello spazio scenico, sempre molto molto più legata all'installazione, quindi all'idea della percezione del pubblico che non alla frontalità della scena, appunto, ottocentesca, e quindi gli elementi che si innestavano e si sovrapponevano sostenevano, si stratificavano, poi richiamati e addensati da quello che è il nostro interprete, il nostro performer più sensibile. In questo caso, in Consegnaci Bambini i tuoi occhi, per esempio, Barbara Voghera, che è un'attrice con sindrome di Down, ma che si è allargato a un mondo polifonico, veramente poliforme, che è quello della sensibilità, che però continua a dialogare ininterrottamente anche con, diciamo, l'attore artista non benedetto barra maledetto dal destino, no? Dalla natura. E quindi c'è questa idea di appunto di moto continuo, di esperienze in cui una visione scenica viene incarnata specificatamente da un attore. Cioè, un attore non vale per tutti i testi, per tutte le messe in scena. Ogni attore come individuo e crea il proprio teatro. E questo, guarda, me l'ha insegnato in realtà qualcuno che sembra molto lontano da noi. Cioè, se tu leggi gli appunti di regia di Luca Ronconi, ti diceva esattamente questo. Meraviglioso. No, meraviglioso questo recupero, questa interconnessione continua tra tutti i livelli del passato, del contemporaneo e da anche altri ambiti che vengono rivivificati attraverso la cornice della scena, di una scena contemporanea, ovviamente. E allora, io intanto mi sono resa conto che il tempo è volato e fra l'altro tu, con ottima tenuta di percezione del tempo, anche dovuta probabilmente agli anni di esperienza teatrale, sei arrivata a parlare, ad anticipare qualcosa dello spettacolo che andrà in scena il 24, se non sbaglio. Il 25. Era prima il 24, poi l'abbiamo posticipato di un giorno. Al sabato. Beh, intanto è un lavoro, è molto interessante dopo che hai fatto una sperimentazione impegnativa, come è stato nel 2008, riprendere un'opera e ritrasferirla, ritradurla nel tuo contesto, intanto temporale, cioè oggi, ma soprattutto in una condizione spaziale diversa. Consegnaci Bambini ai tuoi occhi è nato come macro installazione dentro il piano nobile, 17 sale del piano nobile della Reggia di Colorno, e quindi con una, appunto, una frequenza estetizzante, direi quasi parossistica, cioè al massimo di quella che può essere una visione estetizzante della scena, no? È una reggia decorata, rococò, con innesti di tutti i tipi, quindi mosaici. Per cui entravamo con la magrezza di Lorca, con la sua essenzialità, dentro un mondo opulento, no? Dentro la massima espressione di Maria Luigia, quindi figurati la bellezza. In questo caso, dopo 10 anni, traduciamo quella stessa secchezza, quella stessa così anche crudezza dell'opera giovanile di Lorca, la traduciamo in uno spazio industriale, quindi dove tu hai visto Kinder, questa sala, che però viene segmentata in una sorta di labirinto spaziale, in altrettanti, in questo caso un po' meno, sono 12 spazi, e il pubblico è chiamato questa volta a costruire insieme a Caperucita Roja il suo viaggio, la sua perdita, il suo viaggio nel nulla, che è appunto la ricerca della purezza, e quindi accompagna, o viene sedotto, accompagnato da Cappuccetto nei vari spazi. Quindi restituendo da una parte la dimensione labirintica, fiabesca, la peripezia, tutto quello che sappiamo delle fiabe, e dall'altra però nella asciuttezza del luogo industriale, e nell'asciuttezza soprattutto della separazione, quasi no, delle stanze di nebbia, cioè dove si perda il senso del tempo e dello spazio. Più ne parli, più non vedo l'ora che sia la settimana prossima per potermi immergere in questa situazione. Io devo dire che mi spaventa un po' tutti questi occhi che vedo nel vostro sito. No, questa foto è abbastanza inquietante. Beh, sì. Consegnaci bambina i tuoi occhi, si vede che qualcuna altra bambina gliel'ha già consegnati, forse. Certo, perché gli occhi nel caso occhi. Di Cappuccetto sono evidentemente la sua sessualità. Cappuccetto è sulla soglia della perdita della virginità, quindi entrare nel bosco è farsi possedere dagli occhi degli altri, e quindi è circondata a questi occhi. E nel caso nel caso di Lorca c'è una forte immedesimazione con la perdita di purezza del poeta, che sappiamo era nella fase giovanile, dove stava scoprendo tutta la sua poderosa sessualità, quindi la stava scoprendo e si trasforma proprio in lei in alcuni momenti, e infatti viene respinta in realtà da San Pietro nel paradiso, perché dice: forse tu non sei abbastanza pura per entrare, e quindi c'è questa misura che noi però abbiamo portato nello sguardo, ecco, più che nella carnalità del corpo. Carissima Maria Federica, grazie tantissimo per essere stata la nostra super mega galattica ospite della 172esima puntata di Coxo, e da domani su www.coxospaziale.blogspot.com potremo riascoltare le cose che hai generosamente condiviso con noi. E ovviamente mi sarebbe piaciuto chiederti molto di più rispetto anche all'attività della fondazione in relazione alla città di Parma, e quindi non mi resta che rinnovare per l'ennesima volta l'invito. Tanto io sono fan, qualsiasi cosa facciate è benvenuta al Coxo. Io vi aspetto. Grazie davvero. Ti aspettiamo ciao, qui in radio. Sarò felice la prossima volta di viaggiare, perché io sono molto fissa. Ti veniamo a prendere noi, guarda. Grazie. Buon lavoro. Grazie mille. Ciao. Tanto. Ciao. Ciao. E noi abbiamo parlato di Consegnami bambina i tuoi occhi. Performance, ricerca, teatro. Che tempi. L'altro spazio è Art Gallery, è bar culturale, bellezza e benessere a 360 gradi. La rubrica di Zino. Come il nome di un cinese. Viviamo in un mondo liquido, un'epoca di flusso, una società mutevole, e per orientarmi in questo caleidoscopico contemporaneo mi sono rivolto, come gli antichi, all'oracolo, Google. Per venirmi a capo, trovare un appiglio, ho pensato di conoscere quali erano le domande più frequenti in rete. Se volete un consiglio, non lo fate mai, potreste perdere ogni fiducia nel prossimo. Pensavo di trovare quesiti classici, tipo come trovare un lavoro decente, o come diventare ricchi senza sbattersi troppo, o come posso fare per diventare come Pasquini. E invece, i quesiti che mi si sono palesati davanti mi hanno gettato nella più totale confusione. Una delle domande più frequenti è stata: che tempo fa? Nulla di particolarmente strano, si sa, gli uomini amano parlare del tempo che fa per non parlare del tempo che passa. Ma a seguire abbiamo: perché un uomo sposato tradisce? Perché fumi? Perché un neonato piange sempre? Perché i gatti hanno paura dei cetrioli? E soprattutto al primo posto di questa bizzarra classifica c'è: perché il braciere si intasa? Ora mi viene da pensare, la contemporaneità è una bella cosa, ma non ci vivrei mai. Finito così. Mi viene da dire già finito, però non è. Non confondiamo le rubriche, no, mi raccomando. Sia mai. Gifo che poi è stato molto comprensivo. Che poi ci è arrivato. Appunto. Che poi ci è arrivato anche un 2 minuti di Lolli, così proprio precipuo, preciso, che non possiamo confonderlo con col minuto di Zino, che è stato un minuto e mezzo questa volta. Infatti per quello mi chiedevo se era. Perché non ce l'aveva fatto la volta prima, e quindi adesso si è allungato un pochino. Ah, ho capito. Però Zino fa sempre. No, Vino, fra l'altro, se ci stai ascoltando, ci chiedevamo se venivi a disinstallare la mostra prima o poi, e in quel caso se venivi ospite. Infatti, me lo chiedevo anch'io, e anche il suo gallerista. Però noi non perdiamoci di vista, perché sai che cosa abbiamo adesso? Appunto, lo sai, sì, ti lo sono so, mancate? Lo so, ti sono mancate? Tantissime. Eccole qua. L'angolo della menzione. E comincio io con un bel domenica 18 febbraio. alle 17.30 socialmente al centro sociale di Poggio Torriana Rimini. Guarda che ti porto anche fuori città con le menzioni a sto giro. Okay. Lo spettacolo di Francesco Alberici e Claudia Marciano arriva alla rassegna di spettacoli mentre vivevo, creata in seno ad una rete territoriale fra i comuni di Poggio Torriana, Sant'Arcangelo di Romagna, Verrucchio e Bellaria Marina, io forse era meglio se la leggevi tu, al fine di comporre un'offerta culturale capace di produrre un percorso integrato delle arti contemporanee. Cioè, però non ha fatto lo stacchetto, perché? Ah, eccolo. Ah, non lo so. Eccolo, l'ha fatto. No, belle iniziative, ci vorrebbero anche qua. Assolutamente. Mentre invece, appunto, da Rimini passiamo a Modena. No, siamo ancora a Rimini, perché siccome è un'iniziativa tanto bella, e fra l'altro, mentre vivevo, la cura una compagnia di ricerca veramente, veramente importante, è con noi, per la nostra gioia, Paola Vannoni, che è una fondatrice del gruppo quotidiana.com e co-direttrice della rassegna Mentre Vivevo. Ah, che bello. Ci sei? Ci sono, ciao. Ciao, benvenuta al COXO, grazie per essere qui con noi. Ciao. Allora, domenica sarebbe 19 febbraio, scusa se ti correggo. No, hai fatto benissimo. Hai fatto benissimo, grazie. Eh sì, oggi è il 17, domani è il 18, infatti, domenica è il 19. Ci voleva, perché guarda Paola, io sono famosa per le mie gaffe, sin qui mi era andata tutto dritto, qualche cosa doveva venire fuori di errore, quindi se almeno... posso, allora ne approfitto, ne faccio un'altra di correzione. Sì? Claudia Marsicano. Ecco. Perché, sai, con nome, sai, è meglio non essere... Beh, diciamo che come non primo contatto altre, è andata malissimo da parte mia, e peggio di così non potevo fare. Ti ringrazio comunque per la sportività, chiamiamola. E quindi però ci ho preso che tu sei una cofondatrice di quotidiana.com. Sì, cofondatrice con Roberto Scappini, quotidiana.com. Siamo una compagnia che dal 2003 lavora insieme su un progetto di teatro che chiamiamo contemporaneo, ecco. Questa rassegna in pratica vuole essere così. Io credo che noi ci stiamo sostituendo, noi insieme a tante altre realtà come la nostra, un po' a quello che il pubblico non fa, no? Il pubblico intende il teatro pubblico, cioè accogliere queste compagnie, giovani o meno giovani, che comunque producono un nuovo teatro, no? Il pubblico, il teatro pubblico porta i personaggi televisivi, ciò che piace alla gente, insomma, sai, cose più commerciali. Certo, ed è un lavoro che io veramente apprezzo molto, nonostante abbia coxato tutti i dati della menzione. No, ma assolutamente. No, c'è questa tendenza ormai al teatro, cioè deve produrre economie, quindi deve fare fatturato in sostanza. E in particolare... lo spettacolo socialmente è una riflessione molto acuta e anche godibile sull'uso dei social network, dico bene? Esatto, un po' sul mondo adolescenziale, per cui un po' la tecnologia che un po' sta veramente rimbambendo queste giovani, non solo generazioni, e quindi c'è questa riflessione molto acuta, molto tagliente. Questo è un giovane gruppo che ha vinto molti premi, insomma sta facendo dei passi importanti, e quindi fa questa riflessione molto amara, ma anche molto ironica ovviamente, su questo aspetto della tecnologia e di come i giovani vivono un po' le relazioni in questa epoca, ecco. E sono due personaggi molto, molto in gamba, molto simpatici, insomma, però bisogna inventare strategie per portare le persone a teatro, perché il teatro sta un po' uscendo dal nostro immaginario, no? Quindi cercare di capire come affascinare di nuovo, è un po' come l'arte contemporanea, la curiosità, no? Destare la curiosità verso ciò che non si conosce. Eh sì, ci sono, certo, nomi eclatanti, però ci sono progetti che sono interessanti, ecco. Che questo qui è anche un tema comune per noi del COXO. Prima Stefano provava a dire anche l'arte contemporanea ha questo stesso problema di uscita dall'immaginario, però ce la potremo fare, ce la facciamo. E poi fra l'altro con queste iniziative insomma sono diciamo, il seme per un futuro migliore. E sì, perché consideri che noi siamo a 3 chilometri da Sant'Arcangelo, dove c'è un festival, insomma, storico di teatro, che però, ahimè, non ha lasciato su questo territorio alcuna traccia, se non, diciamo, quasi addirittura una repulsione verso il teatro, no? Laddove il teatro diventa più performance che, insomma, quello che noi tutti riconosciamo teatro, cioè la parola, cioè il gesto. E quindi, ecco, bisogna, qui stiamo proprio cercando di ricostruire un interesse per il teatro, un amore, un interesse per il teatro, che negli anni si è un po', diciamo così, affievolito. Cara Paola, io ti ringrazio per questo intervento, ti ringrazio anche per questa attività sul territorio e ti invito a risentirci anche per i prossimi appuntamenti e per novità in questo senso. È alle 17.30 l'appuntamento, sì? Le facciamo al pomeriggio, poi al termine c'è sempre un aperitivo che consumiamo insieme agli artisti e pubblico, che è anche un momento per scambiarci un po' due parole, cioè questo confronto tra artisti e pubblico, così in modo più informale, che riserviamo per il fine serata. Che credo sia veramente il cuore della questione, dico bene Stefano? Dici esatto. Benissimo, va bene, grazie. Poi l'aperitivo piace sempre, no? Da queste... ci vuole sempre. Anche in Romagna piace l'aperitivo. E non gastronomico. Grazie per essere stata con noi. E buon lavoro e ci sentiamo presto. Ciao. A presto. Ciao, grazie. Ciao. E dunque da Rimini ripassiamo sopra a Bologna senza fermarci. E però Stefano, sto pianino sotto, non è che è un po' ti fa venire sonno. Scoxante, no? Sono le fantastiche improvvisazioni di Marco Stabi. Stiamo parlando di va bene, se un grandissimo. Tiro un po' su così magari tipo Così ci sveglia? vuoi che salto un brano? Non lo so. No. Dimmi che cosa succede mercoledì 22, che io non lo so. Il nostro Stefano Migliore presenta il suo fantastico film. Ma Lepanto. Come? E non mi avevate detto niente. E non ti ha detto niente. No! Lepanto, ultimo Cangaceiro. Come si pronuncia? Cangaceiro. Alla Sala Truffaut di Modena in via degli Adelardi. Ma 4. Mi è finito anche a Modena. Il primo migliore. Capitolo della trilogia brasiliana. Adesso poi vediamo gli altri due. Lepanto racconta la metamorfosi di Mike nell'ultimo Cangaceiro. Storica figura di brigante paladino degli oppressi. Una lotta impari tra le resistenze abitative di un Brasile moderno e ancestrale a due grandi eventi, mondiali e olimpiadi. Grande dell'America Latina, cosa significa non ho capito. In sala presenti ci sono Enrico Masi e Stefano Migliore per discutere con il pubblico. E sai io cosa ti dico? Che per riprendermi da questo scossone emotivo che mi hai dato nominandomi così a bruciapelo Stefano Migliore, che io sono fan anche sua, io ti metto una canzone. Mi metti una canzone che però devo... Che è 1993? Esatto, okay. 1993. Sai che la sfumeremo perché è un po' lunghetta. È un po' lunghetta, la sfumeremo, mi dispiace, ma volevo presentarla un attimo, visto Dai. Che sto tentando di convincere questa artista un po' famosina, un po' più famosa del... No, in realtà no, è abbastanza famosa, si chiama Serena Abrami, ed è una marchigiana e stavo cercando di convincere... Ci piacciono le marchigiane, come la Roberta Giallo. Esatto, ci piacciono le marchigiane come la Roberta Giallo e anche la Susi Muso Grigio, assolutamente. E stavo tentando di convincerla a venire ospite a Coxo Spaziale e adesso, non appena lei troverà una gig da fare di venerdì da fare di venerdì sera, magari riusciamo a farla venire qua e farci fare una canzoncina dal vivo, che non sarebbe male. Voce... assolutamente no. Adesso sai cosa facciamo? Mettiamo il brano, così come una sirena la richiama a noi e ce la troviamo già in studio quando... Molto fantastico. Come sono coccica stasera. Metti. Se ne stava accovacciato in un binario morto, prima del paese, prima del paese. Alla stazione alcuni uomini parlavano, aspettavano rientri, subivano gli incontri. Le panchine che affondavano in un tardo pomeriggio sotto vesti calde, pendolari stanchi a sorseggiare, momenti vuoti tra mutamenti. Io ti guardavo e tu mi guardavi così, al petto i tuoi respiri. Serena, e bravi. Poi devi vedere No, non occorre. Non dico nient'altro. Pasquini, Pasquini, vecchio volpone, che non perde il, no, com'è, che, no, no, era il lupo che, sì, che non perde il, anche il pelo, no, no, ma comunque com'è? Non mi far impasquinare anche a me, che esatto. In realtà noi dobbiamo sempre andare avanti col nostro programma, che siamo in ritardissimo, e quindi se parte oddio, riparte l'angolo, eravamo all'angolo della menzione e ti dico tornati. Subito velocissimo che giovedì 23 febbraio alle 19 Elastico fa Art presenta inaugurazione di Involontari Arte, la mostra di Hello Borgia, col DJ set Alice Key. La mostra, composta da composta esclusivamente di disegni a china nera su bianco, è visitabile fino al 19 marzo negli orari di apertura di Elastico FA Art. Guarda, sono contentissima di questa menzione e anche del fatto che sia toccata a te, se no mi sarei impaperata otto volte. No, perché effettivamente fart con due A non e saprei proprio come... E involontari arte anche, no? Cioè io sarei morta se non l'avessi sentito prima da te. Io come l'ho detto? No, tu l'hai detto rimosso, benissimo, con molta nonchalance. Ma sì, perché stavo ancora pensando a Serena Brava. Ma continuiamo, sì. Perché la dico io o la dici tu quella di sabato 4 marzo? Ah, non lo so, già il fatto che sia sabato 4 marzo è lontanissima, però... È lontanissima, ma perché è grossissima, è una cosa che veramente ci circonda tutti, che non sappiamo neanche come, ma ci siamo immersi e quindi abbiamo dovuto prenderla con anticipo di una settimana e o siamo due. A Reggio Emilia di nuovo, esatto, siamo proprio in fantastico. Regione, via di qua, via andare a destra manca, infatti sabato 4 marzo quindi dopo il prossimo Coxo, che quindi lo ricorderemo anche la settimana prossima, assolutamente, alle ore 18 e alle ore 21 Fatti di Numeri, che è un titolo che già preannuncia, insomma, gioco di parole e via dicendo, al Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia. Lo spettacolo vincitore del bando Create with Open Data, guidato da Monica Morini e Bernardino Bonzani. Grazie. Prego. Interpreterà con il linguaggio teatrale i contenuti dei dataset pubblici della città per una comunità che cambia. E siccome io voglio saperne di più, perché questa cosa del digitale con il presente, con la vita, mi interessa un sacco, sono andata a rompere le scatole alla nostra cara amica Monica Morini. Ah, ma tutti? Sì. Ma buonasera a tutti. Buonasera a te. Benvenuta al Coxo. E scusaci, perché mi scuso io per Fedra, che telefona a tutti quelli che menziona. Ci piace essere interpellati. No, che poi questa cosa, l'ultima volta che ci siamo sentite, si trattava di folle da osterie, c'era la nebbia, eravamo in Valpadana, e adesso invece siamo fatti di una community che cambia. E invece adesso siamo fatti di numeri. Spiegami un po'. Allora, siamo fatti di numeri, anzi a me piacerebbe rivoltarvi la domanda: di che numeri siete fatti voi lì in studio? Io 60, 90, 60, no, il contrario. Sei una bomba, sei una bomba di donna. Allora, no, il 175. Gli open data e i dataset che ci circondano e abitano la città, cioè sono i numeri che abitano la nostra vita. Solo che da cittadini dovremmo poterci accedere, anzi possiamo accederci, perché sono dati pubblici, e che lo sguardo del teatro è quello che ci sollecita a dire: ma questi numeri sono numeri che sentiamo sotto una copertina rigida, irraggiungibili, cioè che numero di rotonde, che numero di bambini nasce ogni anno nelle città, quali vengono da famiglie che hanno origini altrove, quanto zampillare c'è d'acqua, quanta acqua consumiamo. È tutto un quanto fatto di una vita che spendiamo ogni giorno come comunità. E però quei dati lì, quelli che ci riguardano così da vicino, sembrano davvero sigillati in un altrove, mentre invece sono davvero consultabili, e se letti in connessione ci fanno sentire un po' di più la vita che cambia, ma anche la possibilità che abbiamo noi di interagire con la vita che cambia. Ma quindi Monica, quando io verrò sabato 4 marzo a vedere Fatti di Numeri, poi avrò una maggior percezione di tutto questo potenziale e anche qualche chiave interpretativa? È uno sguardo, ogni volta che qua in scena non ci sono solo due attori, un musicista, un artista visivo, un videomaker che ci hanno messo lo sguardo dentro. È la domanda che facciamo anche noi ai numeri. Noi abbiamo chiesto delle cose ai numeri, e secondo me ogni spettatore deve uscire con un sacchettino di domande sui numeri della propria vita e sui numeri che lo circondano. E per usare una lente di ingrandimento su questi numeri pubblici, noi abbiamo chiamato come alleati gli artisti, quindi dai poeti agli scrittori, quindi come la nostra cara amica poetessa Wisława Szymborska dice per un curriculum, no? Che cosa è importante sapere? Il numero di scarpe o dove stanno andando i piedi? Cos'è importante sapere? Quanti matrimoni ci sono riusciti o se siamo ancora innamorati? Ma io avevo una domanda, ma tutti questi numeri, dov'è che tu dici che sono disponibili, ma dove si trovano? Perché invece penso che questo paese abbia un grosso problema di quantificazione delle cose. E in realtà invece questo è un bando, no? Pubblico, proprio perché le amministrazioni sentono che questi dati, per cui spendiamo anche dei soldi, cioè chi costantemente lavora sulla quantificazione come giustamente l'hai nominata, sono dati che però rimangono nei dataset pubblici. Quindi se tu anche nella città di Bologna, no, digiti quante ciclabili, entri nel dataset pubblico del comune di Bologna, ti esce quanti chilometri di ciclabili, quanti parchi ci sono, quante rotonde fai ogni mattina nel tuo percorso. È che i dati vanno davvero letti e interrogati, e così come sono, cioè la prima volta che noi abbiamo aperto un dataset pubblico, c'è un momento in cui siamo abituati a percepire i numeri come respingenti, cioè ci fanno paura, no? Quella cascata di numeri infiniti e non riesce a incrociarli. Poi quando cominci invece a domandare ogni singolo dataset le cose, le cose cominciano a quadrare, cioè non so, nel dataset dell'acqua nel comune di Reggio Emilia, 4 fontane pubbliche hanno fatto risparmiare 8 milioni di bottiglie di plastica in meno. E allora, sai, leggendo un dato così sei anche spinto un po' di più a andarci alla fontana pubblica a riempire la tua bottiglietta, no? Che tra l'altro è anche più buona. Meno chimicizzata dai trasporti, dalla meno tossica, direi. Sì, no, comunque però, molto interessante questa cosa. A me affascina molto questa. Perché sì, il petrolio è davvero un petrolio del futuro, cioè come cittadini siamo chiamati ad avere quello sguardo e soprattutto a domandarci, noi nello spettacolo ce lo domandiamo, no? Noi costantemente cediamo numeri come consumatori. Cediamo numeri a tutti i cookies che ce lo chiedono, no? A tutte le multinazionali che li usano i nostri dati, e non accediamo ai numeri, che è un atto attivo, cioè da persone pensanti. Poi l'altra cosa è ovviamente chiedersi di quali numeri noi siamo fatti e come i nostri numeri interni, quelli più profondi, sono in connessione con quelli pubblici. Questa è la chiave. E questo è quello a cui ci avvicinerà appunto Fatti di Numeri il 4 marzo. E quindi ringraziamo, ringraziamo i promotori del bando Create with Open Data, e ringraziamo voi per aver vinto. Grazie, noi vi aspettiamo tutti a braccia aperte, perché lo spettacolo è tutt'altro che respingente. È dall'altra parte. E non vedo l'ora di venirmi a fare questa bella nuotata di numeri insieme a voi. Grazie, grazie Monica per essere stata con noi. A prestissimo. Buona serata a tutti voi. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Sono le 21:56, abbiamo 4 minuti, di cui 2 minuti di Lolli. Fede, che dobbiamo fare? Mettiamo 2 minuti di Lolli. Mettiamo i 2 minuti di Lolli. E vediamo se riusciamo poi a salutare. Ah, facciamo così, dai, anche perché questi sono divertenti. Ah sì, sono anche particolarmente precipui, come avevo detto. Precipui, per non dire contemporanei. E sono questi qui. I 2 minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Madonna dei Tornelli è una frazione del comune di San Benedetto al Disembro. Si tratta di una località turistica degli Appennini, famosa per la sua storia, seppur recente, e per il suo magnifico paesaggio. A fine gennaio la dirigenza dell'Università di Bologna aveva deciso di installare ed attivare un nuovo sistema di accesso alla biblioteca di via Zamboni, che prevedeva si potesse entrare solo da una porta automatica che si apriva strisciando il badge dell'università. L'immagine di Maria col bambino dipinto su rame viene ogni anno portata in processione fino a Castel dell'Alpi, dove vi resta per 8 giorni, per poi tornare al santuario e alla festa dell'Ascensione. Il termine Tornelli si riferisce secondo di più alla presenza di carbonai che accendevano nei boschi piccoli fuochi per bruciare lentamente la legna ed ottenere così il carbone. Il 23 gennaio il collettivo universitario autonomo, un gruppo di studenti di estrema sinistra, aveva organizzato una protesta. La porta di emergenza della biblioteca era stata aperta per evitare il sistema dei fornelli e dunque un ingresso riservato. Poco prima di entrare in paese si trova il piccolo borgo di Fornello, sempre con riferimenti al fuoco, che pare fosse il primo centro abitato e risale al XVI secolo. Secondo altri deriverebbe non da Foculus, cioè piccolo focolare, ma dalla parola Fornax, in riferimento ad una fornace oppure un cratere. Sulla petizione lanciata su change.org il collettivo dice: lì può firmare chiunque e a nome di più persone contemporaneamente. Si tratta dell'ennesimo fasullo stratagemma per screditare chi ha ragione da vendere. Già finito? Già finito? Già finito. Anche il coxo? Absolutely. Ciao. No, volevo dire una cosa prima. Dilla. Di salutare. Sono solo i 58, abbiamo almeno 30 secondi. Da giovedì scorso. Sì, è vero. Riccardo Lolli è ufficialmente parte di Radio Città Della Fugico. Della famiglia di Radio Città Fugico. Con uova, soda e noci. Ogni giovedì alle 23. Non possiamo non menzionarlo, ogni venerdì alle 22. Mi sembra giusto. Mm. Ci menzionerà lui? No, perché ha già registrato fino a maggio. Avete ascoltato Coxo Spaziale. ascolti spazza sozzo.